e del mondo di lingua tedesca, gli argomenti vari che verranno comunicati ogni volta, come è stato fatto per questo, attraverso i media, attraverso la stampa. Ringrazio il professor Lene di essere venuto, del benvenuto, e prego il professor Schiera di fare la presentazione. Ecco, il professor Lene è ormai nonostante questa giovane, insomma, uno dei studiosi tedeschi più nati per più interesse alla carica. Lui ha già studiato a fondo il pensiero di Benedetto Croce, lui ha pubblicato un lavoro che è tra i tanti lavori che sul grande filosofo di questa cosa. In questione si è poi occupato di studiare invece i rapporti tra il mondo politico italiano e il mondo politico tedesco durante il periodo, il primo periodo del fascismo, cioè durante il periodo in cui in Italia il fascismo saliva al potere, andava al potere e si affossava, e il periodo in cui invece la Germania, uscita dalla prima guerra mondiale, viveva quella stagione fortunata ma insieme così eccitante che è stata la stagione della Repubblica di Weimar. Proprio su questo egli si parlerà oggi, e su questo egli sta preparando un lavoro molto grosso che uscirà entro il prossimo anno, 1979, che appunto sarà dedicato alla risposta che è il del fascismo in Germania durante la Repubblica di Weimar. Ecco, io sono contemporanea, ma a partire dalla rivoluzione francese, e mi fermerei qui, solo ricordando che a tutti che erano tutti sotto gli occhi la grande fortuna che in questo momento sta, la fortuna mi sembra di poter dire, che in questo momento sta vivendo il tema di Weimar, della Repubblica di Weimar in Italia, si ne parla da anni qua, di giornali che sono ultimamente le rotazioni di questo periodo, ci sono morte, ci sono convegni, ci sono oggi il dottor Bocconi, che è un trentino studioso di questo problema, ha dato un libro che va da Einaudi l'anno scorso, non è potuto partecipare, ha dovuto partecipare a questo riunione perché ha Modena a parlare, che ha fatto prima che lui mi dai, ma quindi è veramente un tema. Oggi abbiamo l'occasione di avere un esperto sicuro come consigliere come fanno, quindi io lo ringrazio, non è difficile, ti do la parola. I lavori sono concepiti secondo la modalità solita, cioè credo che stamattina la relazione di base di consigliere e poi già eventualmente credo un'ultima di discussione che si presta, si vuole poi l'interruzione per la consueta colazione, per il pomeriggio la ripresa con l'ulteriore sviluppo della discussione e risposte del professore. Grazie. Signore e signori, prima di tutto vorrei dire che sono molto contento di poter svolgere qui nell'Istituto Storico Italo-Tedesco di Trento un seminario sul pensiero politico nella Repubblica di Weimar. Grazie per il gentile invito. Devo scusarmi che il mio italiano, specialmente la mia pronuncia, lascia molto da desiderare. Spero che nonostante tutto mi saprò spiegare, e credo i partecipanti che capiscono la lingua tedesca di darmi un aiuto se sarò costretto nella mia relazione e nella seguente discussione ad usare parole o frasi tedesche da farmi capire. Dunque, il pensiero politico nella Repubblica di Weimar. E questo è un campo molto vasto che potrebbe comprendere tutte le idee politiche di questo periodo. Dobbiamo perciò, già dal punto di vista della trattazione pratica, deciderci di restringere l'argomento. Non vogliamo qui dunque parlare, o perlomeno non in prima linea, delle idee politiche dei partiti politici, che si impegnano quasi ex officio nella politica di ogni giorno. Ci interessa invece soprattutto la discussione politica che si svolta nella vita pubblica più vasta e generale della Repubblica di Weimar, cioè nell'opinione pubblica di questo periodo. Ci riferiamo con questa intenzione ad un campo di non facile intendimento, perché che cosa è la vita pubblica di un paese? Che cosa è la sua opinione pubblica? Permettetemi di cercare di chiarire ciò che ho in mente ancora con un altro concetto purtroppo neanche molto preciso, cioè col concetto della intelligenza come gruppo di persone di un certo livello spirituale e culturale. Questa intelligenza, dal conto suo, è difficilmente spiegabile come concetto preciso. Dobbiamo limitarci ad accennare al fatto che varie interpretazioni sono possibili, sebbene sempre con una certa problematicità. Intelligenza, come gruppo di tutte le persone colte, è intelligenza come gruppo di coloro che sono in possesso di certi certificati di istruzione universitaria. È intelligenza come gruppo di tutti coloro che si occupano di cultura spirituale, sia creativamente, sia tramandando l'eredità culturale, sia occupandosi generalmente della vita culturale, dei suoi uomini e delle sue manifestazioni materiali. Sarebbe adeguato discutere su tutte queste possibilità di definire l'intelligenza come gruppo, ma ci dobbiamo rinunciare per ovvie ragioni di tempo. Decidiamo di prendere l'intelligenza come gruppo che comprende uomini di vari livelli spirituali e di varie funzioni entro la vita culturale, ma col presupposto che i sottogruppi della intelligenza stanno in una certa relazione tra di loro, una relazione che ci permette di analizzare l'intelligenza come gruppo globale, concentrandoci perlomeno in un primo momento su un gruppo di un livello spirituale più alto e riflettendo in un secondo momento sulla rappresentatività di questo gruppo sociale in riguardo all'intelligenza nel senso più vasto e forse alla fine sulla funzione di questa intelligenza per la direzione politica di tutto il paese, rispettivamente sull'influsso di questa intelligenza sulla vita politica della Repubblica di Weimar. L'abolizione del Kaiserreich dei Hohenzollern e la fondazione della Repubblica di Weimar ha creato una situazione profondamente nuova per l'intelligenza tedesca, non nel senso che l'intelligenza ora per la prima volta avrebbe ricevuto la piena libertà di esprimersi anche politicamente. Al contrario, recentemente Walter Lacker, ebreo tedesco emigrato in Inghilterra durante il tempo del nazionalsocialismo, ha giustamente constatato che un certo livello di libertà dei cittadini singoli e della opinione pubblica nel Kaiserreich non sia da negare. E questo però certamente soltanto un aspetto della situazione dell'intelligenza nel Kaiserreich. Era chiaro nella vita pubblica del Kaiserreich che le cose serie, la politica, l'esercito e l'economia spettassero soltanto al monarca, all'aristocrazia e all'alta borghesia, possessori di latifondi o di impianti industriali, o, da dirlo con una sola parola, ai propri dirigenti e non ai rappresentanti della cultura, cioè all'intelligenza. La libertà dell'intelligenza nel Kaiserreich era una libertà apolitica, civile artistica, e l'esempio di Thomas Mann fa intendere che perlomeno una parte della intelligenza tedesca ha accettato questa doppiezza della sua situazione, sebbene essenzialmente come consideratori apolitici, come si potrebbe dire in allusione al noto libro di Thomas Mann, Considerazioni di un apolitico, nel quale Mann esalta il Kaiserreich come ambiente molto confortevole per la vita culturale. Nonostante questo, la situazione della intelligenza nella Repubblica di Weimar era cambiata profondamente, in quanto questa intelligenza poteva essere d'avviso, ed era infatti dell'opinione, che nella nuova Repubblica le spettasse un influsso legittimo sullo Stato, anche sulla politica del nuovo Stato, cioè l'aspettativa dell'intelligenza a vasti orizzonti, non so se ho tradotto bene in italiano, cioè l'aspettativa dell'intelligenza cambiava in seguito alla fondazione della Repubblica di Weimar come democrazia. Questa autocoscienza cambiata non si riferiva soltanto all'intelligenza di tendenza democratica, ma anche all'intelligenza conservatrice e reazionaria, nonostante che quest'ultima dal primo momento ripugnasse la democrazia parlamentare, che giudicava di invenzione e importazione straniera ineguata al popolo tedesco. Dato i profondi problemi politici e sociali che dai difficili inizi della Repubblica di Weimar dividevano le correnti politiche e i ceti sociali, la cresciuta consapevolezza del proprio valore della intelligenza ed una enorme intensificazione della gara tra le contrastanti forze politiche e sociali coincidevano. In seguito a questa coincidenza, l'intelligenza non aveva per lo più l'impressione di essere rispettata come una forza utile per approfondire e per arricchire la discussione politica e per darle la direzione, cioè di avere propriamente questo posto su cui si fondasse la sua nuova consapevolezza del suo valore, ma di essere costretta a svolgere un'azione di ragionamento politico fissato unicamente sullo scopo di correggere la cattiva realtà della nuova politica repubblica. L'intelligenza della sinistra accompagnava con aspra critica tutti gli avvenimenti della Repubblica ritenuta poco conforme alla sua idea di una Repubblica popolare, democratica, sociale e pacifista, mentre l'intelligenza della destra accresceva la sua opposizione in un odio militante senza tregua e senza limite. Un indice di questa situazione dell'intelligenza, portatrice di un nuovo dovere nella Repubblica Democratica e Parlamentare di Weimar, caratterizzata da una parte della sua importanza cresciuta, dall'altra parte dal combattimento politico accanito fra le varie correnti politiche, nel senso dell'intelligenza stessa, nel segno dell'intelligenza stessa, sta nel fatto che proprio in questo periodo due pensatori tedeschi, Max Scheler e Karl Mannheim, sentivano l'impulso di chiarire meglio il posto e la funzione dell'intelligenza nel campo politico e sociale. Si sono serviti a questo scopo di una nuova sociologia del sapere, allargando e arricchendo il problema del pensiero di Marx in riguardo al rapporto fra fondamento economico e soprastruttura spirituale. Mannheim stesso si riferisce al fatto che nell'età moderna, specialmente durante il tempo vissuto da lui stesso, il contrasto tra le diverse correnti politiche dell'intelligenza, da lui stesso più propriamente chiamati vari modi o stili di pensare, sia significativo per la fondamentale democratizzazione del pensare, cioè per il concreto fatto che la discordanza dei pensanti sia più appariscente che la loro concordia. Dice, dalla diretta osservazione delle cose chi si rivolge all'osservazione dei modi di pensare e la possibilità di elaborare i concetti di cose e di situazioni direttamente e continuamente in confronto alla molteplicità di definizioni diversi e decaduta. Mannheim trovava i principali aspetti per una tale osservazione dei modi di pensare nell'analisi della formazione di questi modi di pensare per mezzo dell'agire e pensare di un intero gruppo sociale nel contesto di una data società. Dobbiamo rinunciare alla seducente idea di seguire più dettagliatamente la sociologia del sapere del Mannheim, ma ci ritorneremo un'altra volta alla fine delle nostre considerazioni sul pensiero politico nella Repubblica di Weimar. Ora è venuto il momento di introdurre un piccolo panorama di questo pensiero politico per dare una certa idea delle sue tendenze principali. Sarà impossibile trattare l'argomento in estenso. Dobbiamo invece deciderci di mettere in prima linea certe personalità che sono adatte a rappresentare le correnti principali dell'impegno politico dell'intelligenza nella Repubblica di Weimar. Vogliamo concentrarci su tre correnti che ci sembrano di principale importanza. Sui sostenitori della Repubblica di Weimar, appartenenti al campo della borghesia, senza tendenze troppo accentuate al socialismo. Sui critici della realtà della Repubblica di Weimar, indicata troppo poco corrispondente agli ideali di libertà democratica, di giustizia sociale e di antimilitarismo e pacifismo, con una tendenza di fondo al socialismo e sugli oppositori alla Repubblica di Weimar da una posizione detta rivoluzionaria conservatrice, prevalente nella intelligenza borghese di destra. È chiaro che si potrebbe caratterizzare molteplici posizioni intermediarie o più estreme di destra o di sinistra, ma nel nostro contesto una tale distinzione mi parebbe più causa di confusione che di precisazione. Sebbene una caratterizzazione più vasta del pensiero politico di Weimar dovrebbe e potrebbe con utilità concretizzare questa distinzione più dettagliata e più esatta. Potrebbe sembrare fuori dei limiti esteriori accettati per questa mia conferenza se mi occuperò prima con Theodor Wolff, redattore principale del Berliner Tageblatt, perché lui è stato 1918 fra gli fondatori del nuovo partito tedesco democratico. Dunque non farebbe parte dell'intelligenza fuori dei partiti che ci interessa in questa conferenza. Ciò nonostante, questo proprio Wolff è adatto di aprire una serie di rappresentanti dell'intelligenza, perché lui rappresenta questa parte dell'intelligenza che accettava la nuova Repubblica, che in un primo momento si impegnava per questa Repubblica nel contesto di un nuovo partito e che poi, deluso, lasciava il partito mentre restava fedele alla Repubblica fino alla sua distruzione nel 1933. Wolff, 1918, apparteneva a questo gruppo dell'intelligenza liberale che cercava di dare forza alla Repubblica con la fondazione di un nuovo partito della sinistra liberale, collegiando forze borghesi aperte ad una politica di vaste riforme politiche e sociali. Voleva aggiungere questi elementi borghesi ai partiti socialisti, rispettivamente marxisti, per una collaborazione intensa e sincera. Accettando la rivoluzione e i fatti che la rivoluzione aveva prodotto, Wolff si impegnava per l'attuazione di una democrazia e di un sistema parlamentare fedeli ai loro principi. Vedeva come dovere della nuova Repubblica una compensazione delle ingiustizie provocate dalla guerra, la divisione dei grandi latifondi e la socializzazione delle industrie monopolistiche. Doveva fra poco intendere che il nuovo partito e la sua direzione non sapevano di concentrarsi a questi principi sopra accennati, che invece la tradizione liberale del Kaiserreich e che i vecchi leader del partito di progresso del Kaiserreich avevano fra breve il predominio nel nuovo partito e con loro i mezzi tattici e gli interessi economici dell'alta borghesia. Lo slancio ideale della fondazione spariva fra poco. Spariva anche l'approvazione di un elettorato abbastanza grande. Il partito si diminuiva da una elezione all'altra. Wolff traeva le conseguenze da questo processo. Si allontanava prima dal comitato direttivo del partito, poi nel 1926 anche dal partito stesso. Ciò significava che già circa un anno dopo la rivoluzione, Wolff e il suo giornale Berliner Tageblatt, prendevano posto fuori dal sistema dei partiti come forza liberale indipendente. Continuava di favorire la corrente liberale nella Repubblica di Weimar, ma non riusciva di inaugurare una linea politica coerente che avrebbe avuto la forza di attrarre un gruppo politico stabile e forte, adatto di influenzare decisivamente la vita politica della Repubblica. Un processo analogo accadeva nell'ambito dei due grandi giornali liberali, Frankfurter Zeitung e Vossische Zeitung, anche loro in un primo momento impegnati col Partito Tedesco Democratico. Questi giornali restavano dei centri liberali nell'opinione pubblica della Repubblica di Weimar, ma il loro impegno liberale si cambiava perlomeno nella massa dei loro lettori in una mera abitudine di rado impegnato e veramente militante. Wolf e molti altri personaggi vicini alle sue convinzioni politiche restavano certamente fedeli al loro credo liberale, ma non avevano né l'abilità politica né la forza di persuasione di farsi seguire da una parte importante della borghesia e dell'opinione pubblica. Ne prova, fra altro, il destino dei partiti borghesi in confronto al rapido aumento degli elettori nazionalsocialisti, questi partiti condannati tutti ad una impotenza costernante. Rappresentante della seconda corrente dell'intelligenza nella Repubblica di Weimar, alla quale vogliamo rivolgerci in questa nostra conferenza, è Karl von Ossietzky, che cominciava la sua attività di giornalista poco prima della prima guerra mondiale e che durante la Repubblica di Weimar raggiunse il culmine del suo impegno politico. La prima attività pubblicistica coerente di Ossietzky si svolgeva in servizio della Società Tedesca per la Pace, organizzazione pacifista. Non a caso, poiché già i primi attacchi del pubblicista Ossietzky erano indirizzati contro il militarismo prussiano-tedesco. Era d'avviso che la guerra avrebbe enormemente rafforzato la necessità delle attività internazionali a favore della pace, a favore di un pacifismo generale. Così Ossietzky partecipava alla promettente prova di collegare i partecipanti della guerra ed anche un più vasto pubblico per una propaganda seguente la parola d'ordine mai più guerra. Riusciva insieme con altri uomini della stessa convinzione ad organizzare parecchie volte delle assemblee di massa in favore di questa parola d'ordine. Accompagnava la sua campagna contro la guerra con un impegno militante per la Repubblica e per la democrazia. Non ignorava affatto certe debolezze del sistema parlamentare della Repubblica di Weimar, ma non traeva da questo giudizio la conclusione di rifiutare interamente questo sistema. prendeva invece l'impulso da questo fatto per migliorare il sistema, sia a mezzo di una critica tagliente in confronto ai rappresentanti dirigenti della Repubblica e alle loro decisioni. Era conforme alla sua intenzione di correggere la Repubblica la sua partecipazione attiva alla fondazione del Partito Repubblicano, che si inserì nell'elezione al Reichstag del 1924. Ossietzky propagava il nuovo partito con un giornale fondato proprio con questo scopo, chiamato La Repubblica. Chiamò il suo giornale col sottotitolo Il foglio degli uomini di 30 anni per gli uomini di 30 anni. Voleva dunque rivolgersi al gruppo dei combattenti della guerra mondiale, perché era dell'opinione che questo gruppo dovesse essere aperto alla nuova iniziativa di attivare la coscienza repubblicana e democratica con l'accento antimilitare, antirevisionista e pro-francese. Il risultato della prova di fondare un partito di suddetto indirizzo è presto riassunto. La giovane forza dei democratici critici, concentrata a risvegliare l'attività e ad iniziare la rinnovazione della Repubblica dal suo interno, non riusciva ad assicurarsi l'aiuto della grande massa dei coetanei e compagni di Ventura, che invece fu influenzata mille volte con delle parole d'ordine nazionali e nazionalistiche dei monarchici, dei militaristi e dei revisionisti. Non molto tempo dopo la sua sconfitta, Ossietzky accettava un altro compito, la collaborazione presso una delle più famose riviste politiche settimanali, il Tagebuch. Qui, allo stesso modo come 2 anni più tardi, nella Weltbühne, l'altra delle accennate riviste, Ossietzky trovava il pubblico adatto al suo talento, cioè una rivista di intellettuali per gli intellettuali. La rivista gli dava adito non soltanto all'attività di editore, ma anche di fare il critico degli avversari e degli amici della Repubblica, prendendo l'impulso dai concreti avvenimenti politici e dalle situazioni delle forze politiche del dato momento. Criticava gli avversari perché le loro attività erano indirizzate ad attaccare la Repubblica e a diminuire il suo prestigio. Criticava gli amici della Repubblica perché agivano troppo timidamente ed incertamente, con troppo poca fantasia e sempre troppo concentrati all'interesse del loro partito, ed erano perciò impotenti ad inserire nella Repubblica una forza vivente di propaganda e di realizzazione. Se la sua critica in confronto ai suoi avversari era tanto tagliente e precisa che Ossietzky poteva essere sicuro del loro odio accanito, il suo comportamento in confronto agli sostenitori ed amici della Repubblica non era adatta a fargli degli amici e neanche a motivare positivamente gli uomini all'impegno pratico di concreto entro i limiti del possibile a favore della Repubblica. Già nel 1926 Ossietzky passava alla seconda rivista politica settimanale degli intellettuali critico-democratici ben conosciuta, alla Weltbühne. Critica della nuova della burocrazia non democratica, del militarismo e del sciovinismo, lotta per una riforma del diritto penale, per il rinnovamento della giustizia e per una collaborazione, per il rinnovamento della giurisdizione e per una collaborazione con la Francia erano gli argomenti preferiti a sempre e sempre di nuovo trattati da Ossietzky. Nella Weltbühne Ossietzky si impegnava a fondo per la lotta della rivista contro il riarmo e contro una rimilitarizzazione clandestina della Germania che la Reichswehr metteva in azione e che i vari governi tedeschi favorivano, sebbene con accento diverso. Scoprire l'attività della cosiddetta Reichswehr nera, cioè della Reichswehr clandestina, all'inizio degli anni venti era soltanto un punto d'iniziativa, se anche un punto importante per combattere l'influsso dei militari che si dilaguava nel fondo. L'importanza che Ossietzky attribuiva a questa lotta è da intravedere in una frase di Ossietzky già scritta nell'anno 1920. Dice: noi tedeschi non saremo maturi per la democrazia se prima non combatteremo contro l'aspirante al servizio militare che sta dentro l'orto di noi tutti. Non so se la tradizione fa. La lotta politica di Ossietzky riceveva una certa problematicità dal fatto che era indirizzata contro avversari e contro sostenitori della Repubblica senza una differenza di principio. Come era da giudicare il comportamento politico che si impegnava con convinzione per una intesa, anzi per una amicizia tedesca-francese, ma che contemporaneamente attaccava con estrema atrocità il ministro degli affari esteri della Germania, Gustav Stresemann, che era l'esponente politico per un avvicinamento e per una collaborazione concreta fra le due nazioni. O come era compatibile se Ossietzky favoriva una politica ispirata di idee di sinistra, di idee socialiste, ma se nello stesso momento egli nella sua critica umiliava gli esponenti ufficiali di questa politica. I politici dirigenti della socialdemocrazia tedesca in un modo che sembravano essere agli occhi della intelligenza uomini ridicoli e che loro stessi non potevano essere convinti a collaborare con un critico senza riguardo per nessuno e per niente. Il fatto che Ossietzky e i suoi collaboratori come Kurt Tucholsky e molti altri praticavano la loro critica senza grandi riguardi contro tutte le correnti politiche, prendeva loro gran parte della loro efficienza. Avrebbe potuto destare il sospetto che facessero un loro gioco intellettuale se il loro comportamento critico non fosse stato caratterizzato da un alto rigorismo etico. Questo si manifestava molto distintamente, perlomeno in riguardo a Ossietzky, quando lui, accusato e condannato a causa di alto tradimento, rifiutava di fuggire all'estero, ma decideva di restare in Germania e di scontare l'arresto, protestando contro il giudizio da lui attaccato come errore giudiziario sotto l'influsso degli interessi della Reich. Poiché Ossietzky aveva scoperto certe attività dell'industria per la costruzione di aeroplani proibita nel Trattato di Pace di Versailles. Questo coraggio personale di Ossietzky in difesa del diritto di critica lo ha confermato tragicamente quando è stato portato nei campi di concentramento subito dopo l'occupazione del potere statale da parte dei nazionalsocialisti. Ossietzky ci restava alcuni anni e moriva 2 anni dopo il suo rilascio provvisorio, distrutto da tormenti sofferti in questi campi. La consegna del premio Nobel della pace nel 1936 aveva il suo profondo diritto in questo coraggio di difensore della libertà critica. I rivoluzionari conservatori sono il terzo gruppo della intelligenza che ci interessano come rappresentanti del pensiero politico della Repubblica di Weimar. Il fatto che scegliamo come rappresentante di questo gruppo Arthur Möller-Vandenbroek potrebbe sembrare fuori luogo, perché egli moriva già nel anno 1925, dunque non ha vissuto i tempi decisivi della Repubblica di Weimar. Ciò nonostante, lui è veramente adatto ad essere scelto come rappresentante della corrente dei rivoluzionari conservatori, perché lui ha espresso le loro idee in modo molto impressionante e perché ha avuto un contatto personale spesso importante, anzi decisivo, con molte personalità del gruppo conservatore rivoluzionario, e infine perché molti degli uomini del gruppo sono spesso ritornati al suo pensiero, hanno preso l'impulso dalle sue idee, modificandole e riferendole ai problemi ed alle situazioni concrete del tempo. Così l'impegno di Möller-Vandenbroek per tutto il tempo della Repubblica di Weimar è stato vivente ed operante e ha decisivamente influenzato molti circoli nazionalisti della intelligenza. Möller-Vandenbroek, che ha guadagnato prestigio nel mondo della cultura, soprattutto come traduttore delle opere di Dostoevsky, dopo la rivoluzione diventava uno dei importanti avversari della Repubblica di Weimar, dal punto di vista che rifiutava ugualmente la restaurazione dell'impero degli Hohenzollern e la nuova Repubblica liberal-democratica. le sue idee si manifestano in modo più comprensibile nel suo libro pubblicato nel 1922 col titolo Il Terzo Impero, Das Dritte Reich. Quest'opera dà adito anche al modo delle idee di tutto il gruppo, a questo mondo che va a vedere la contrarietà già del suo nome usato dai contemporanei rivoluzionari conservatori. Il pensiero di Möller van den Broek è molto profondamente impressionato dall'esperienza della guerra mondiale e dalla rivoluzione, ma egli dà di questi due fenomeni una interpretazione molto originale, o diciamo meglio, molto soggettiva, anzi fantastica, orientandosi ai suoi desideri nazionalistici di grandezza nazionale. Se si prende da prima questi concetti del suo pensiero, che si è preso per indicare tutto il gruppo come rivoluzionario conservatore, si chiarisce da questo soprattutto la differenza verso i conservatori di tendenza monarchica. Möller van den Broek rifiuta una restaurazione dei Hohenzollern e dimostra di differenziarsi dalla reazione da lui rigettata per mezzo di un credo conservatore esplicitamente indirizzato contro i conservatori di tipo monarchico. Essere conservatore per lui significa riferirsi ai valori sempre restanti e valenti della nazione tedesca comunicati dalla storia. Questi valori, pensa, siano minacciati o già seppelliti dal liberalismo e dalla democrazia. Per assicurarsi questi valori, la cosa più importante non è la reazione e la conservazione, ma il superamento rivoluzionario di tutti gli impedimenti sorti dalla rivoluzione francese in poi per mezzo di un rinnovamento nazionale all'interno del popolo. Dice: la storia del nostro popolo comincia davvero con la rivoluzione, con la delusione a causa della rivoluzione. Comincia ad un nuovo livello, come ha fatto già spesse volte, ma ora ad un livello propriamente decisivo, su cui siamo confrontati con una estrema ed ultima prova, e la nazione adesso è venuta portatrice del proprio destino. A questo livello il popolo dovrà accettare le esaltazioni collegate alla politizzazione di una nazione, e sotto l'impressione della rivoluzione anche noi realizziamo questo sviluppo che ci porterà alla nazionalizzazione. O la nazione non sarà più. Deve essere questa nazionalizzazione, altrimenti la nazione tedesca non sarà più. Dunque, la professione contemporanea di conservazione e di rivoluzione si sviluppa precisamente da una posizione controrivoluzionaria, da una posizione che non è orientata alla parità e alla giustizia, ma invece alla solidarietà sociale fra disuguali nella nazione che è giudicata il valore più alto e più importante. Allo stesso modo, come il concetto della rivoluzione dal campo della rinnovazione politica e sociale, insieme al superamento delle imparità, è trasportato al campo dello sviluppo della coscienza nazionale, che, ciò è vero, deve fondare da sé un vecchio e rinnovato ordine sociale di solidarietà dei membri della nazione fra di sé disuguali. Il concetto del socialismo, importante nel sistema ideologico di Möller van den Broek, è trasferito dal campo della politica interna al campo della politica estera, e durante questo trasferimento interpretato in modo molto diverso dall'uso comune. Non si tratta più della giustizia sociale in riguardo al singolo nel quadro dello Stato e della società che lo comprendono, ma si tratta del diritto dei popoli, specialmente dei popoli giovani, in confronto alla situazione degli stati tra loro. Il problema della giustizia degli individui e dei ceti sociali è posto nel fondo. Dice: non c'è nessuna giustizia per gli uomini se prima non c'è giustizia per i popoli. Gli uomini hanno la possibilità di vivere soltanto se i popoli hanno la possibilità di vivere. Con questo pensiero si è trovato il punto concreto che dà l'inizio a far preparare o a far progredire la rivoluzione, che coincide con la vera e propria realizzazione del principio della conservazione. La difesa militante del diritto di vivere della nazione tedesca contro la repressione che praticano i vincitori della guerra serve in primo luogo alla conservazione ed allargamento delle energie politiche del popolo tedesco. Può in secondo luogo dare l'avvio al superamento generale di liberalismo e di democrazia, presupposto dal canto suo per una rinnovazione conservatrice a livello internazionale. È dunque così che Möller van den Broek, dalla sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale, trae la prospettiva di mettersi in testa di un movimento rinnovatore in senso conservatore a mezzo di un nazionalismo ringiovanito e rafforzato. L'avvento del fascismo italiano nel 1922 è interpretato da Möller van den Broek in questo senso come sviluppo corrispondente e salutato come confermazione delle sue idee. Questa trasformazione ideologica della sconfitta tedesca era strettamente adatta a nascondere la situazione reale della Germania. Al posto dei problemi reali e concreti di ordine politico e sociale, viene trasportata la situazione della nazione tedesca nel contesto internazionale, e la nazione tedesca in più aveva la possibilità di guadagnarsi dei meriti per la cultura europea di grandissima stima se seguiva la sua politica di revisione dei trattati di pace. Potrebbe forse continuare ancora un po', dopo facciamo una pausa. Perché lei è già no, ma ci vuole un po', ancora un po' di tempo. Con Theodor Wolff, Karl von Ossietzky e Müller van den Broek, ci siamo occupati con tre dei rappresentanti dell'intelligenza della Repubblica di Weimar e con la loro presa di posizione nei confronti di questa Repubblica che fa supporre il vasto spettro delle correnti politiche contrastanti nella intelligenza tedesca del tempo. Prima di chiederci quanta efficacia queste varie correnti politiche sviluppavano, possiamo chiarirci la loro importanza aggiungendo ai nomi fin qui trattati isolatamente altri che fanno vedere che dietro questi personaggi ci sono dei gruppi di intellettuali. Questi gruppi non sono precisamente omogenei, ma fanno vedere con tutte le loro differenze certe variazioni di temi fondamentali. Così possiamo elencare in collegamento con Theodor Wolff il sociologo Alfred Weber, il professore di diritto di Stato ed autore della Costituzione della Repubblica di Weimar, Hugo Preuss, i sociologi di cultura Ernst Troeltsch e Max Weber, lo storico Federico Meinecke e lo scrittore Thomas Mann. Si incontravano nella loro accettazione della Repubblica di Weimar, mentre gli uni accentuavano il senso di svincolamento delle energie democratiche e le speranze del primo e nuovo impeto, gli altri sottolineavano di più la coscienza ragionevole nella necessità e nella irreversibilità dello sviluppo verso la Repubblica Democratica Parlamentare. Se si fa la prova di calcolare il loro influsso sul cerchio più vasto della intelligenza, non è necessario spiegare la difficoltà di questo compito, si trova due punti di osservazione. In primo luogo, la posizione dei suddetti personaggi in confronto ai partiti costituiti della Repubblica di Weimar. In secondo luogo, la loro posizione all'interno del loro gruppo di colleghi di mestiere. Tutti i personaggi avevano, perlomeno all'inizio della Repubblica, delle relazioni in parte molto strette col Partito Tedesco Democratico. Se si guarda alla diminuzione veloce ed non interrotta di questo partito, si deve pensare che l'influsso del detto gruppo di intellettuali non è da giudicare positivamente. Se si addita a questa considerazione la posizione di ogni queste personalità nel suo ambiente di mestiere, viene fuori il seguente risultato. È vero che Theodor Wolff e il suo giornale Berliner Tageblatt avevano grande fama nell'opinione pubblica della Repubblica di Weimar, ma i giornali nazionalisti erano di distribuzione molto superiore e molto più vasta. Se si guarda allo storico Friedrich Meinecke, c'è da constatare che il suo aiuto alla Repubblica non trovava nessun paragone. Il suo insuccesso e l'insuccesso dei suoi pochi colleghi democratici risulta dal fatto che fra i professori e ancora di più fra gli studenti erano più valenti gli influssi nazionalistici. La posizione di Thomas Mann a favore della Repubblica provocava tanta opposizione, e da ciò si può intravedere che questa sua posizione non trovava gran successo nell'intelligenza più vasta. Così l'opinione è ben giustificata che l'influsso dei Vernunftrepublikani, dei repubblicani di ragione, per prendere una espressione di Friedrich Meinecke, sebbene non adatta in ugual modo per tutte dette personalità, generalmente non si allargava molto. Il loro ricorso alla ragione e alla coscienza della politica come arte del possibile sembra aver avuto nell'ambiente della Repubblica di Weimar soltanto poca attrattività ed è lasciata negli ultimi anni della Repubblica fuori da ogni considerazione più intensa ed allargata. Si può aggruppare una serie di personalità intorno a Karl von Ossietzky che è ancora meno omogeneo che non il gruppo rappresentato da Theodor Wolff. Si potrebbe nominare l'editore del Tagebuch Leopold Schwarzschild, poi il collaboratore di Ossietzky nella Weltbühne Kurt Tucholsky, il fratello di Thomas Mann Heinrich Mann, Helmut von Gerlach e molti altri collaboratori fissi o casuali del Tagebuch e della Weltbühne. Il gruppo era d'accordo all'inizio della Repubblica nella alta aspettazione verso la Repubblica Democratica Parlamentare e in riguardo alle possibilità degli intellettuali di influenzarla decisivamente da parte loro. Dopo la delusione di queste speranze, il loro alto impegno morale induceva questi uomini a fare una critica spesso troppo tagliente che aveva lo scopo di distruggere fino in fondo l'avversario e di discreditarlo moralmente, che però era anche indirizzata spesso contro i sostenitori e contro gli amici della Repubblica. Non c'era da dubitare in riguardo all'alto impegno morale della loro tendenza di favorire il pacifismo, l'uguaglianza del diritto e la giustizia sociale a proposito degli interessi degli operai. Il carattere del loro pensare politico, prevalentemente critico, morale, ma anche la loro abilità di analizzare esattamente le situazioni politiche, economiche e sociali davano ai loro contributi una qualità molto alta. Ma l'efficienza di questi contributi diventava minore perché i critici non erano pronti a farsi seguaci delle loro tendenze principali, facendo concessioni tattiche su parti meno importanti o ignorando le debolezze e le insufficienze dei loro probabili sostenitori. Uno stato fermo in sé stesso e con un gruppo di sostenitori sinceri e fidati avrebbe dovuto salutare il foro critico di questo gruppo come correttivo e come stimolo. Ma per la Repubblica di Weimar questa medicina era troppo forte. Questa medicina non aveva il successo di attivare e mobilizzare le forze democratiche, ma di far rassegnare una parte sempre più grande dell'intelligenza. Sembra sintomatico che la Weltbühne era d'accordo con la interpretazione comunista che il governo del cancelliere Brüning sia già pieno potere del fascismo. Nello specchio della critica di questo gruppo, la Repubblica di Weimar sembrava già da tempo tanto corrotta che sembrava impossibile aiutarla davvero. Il gruppo, con il Tagebuch e con la Weltbühne, era in possesso di due mezzi di pubblicità per influenzare la società. Il suo livello intellettuale limitava il suo influsso a un cerchio ristretto della intelligenza. La sua intelligenza faceva vedere molto rigidamente le macchinazioni degli avversari della Repubblica. Faceva anche apparire le debolezze della Repubblica in piena luce. Non c'è nessun indizio che in una parte più grande dell'intelligenza il suo rigorismo etico-politico si sarebbe tradotto in attività politica in conformità a questa critica. E invece da sospettare che la critica conferma i spettatori scettici nell'opinione che la politica sia un affare sporco da lasciare ad altri più adatti a questo mestiere. Abbiamo infine scelto Möller van den Broek come rappresentante dei rivoluzionari conservatori, cioè di questi uomini che, sebbene nazionalistici nemici mortali della Repubblica, non si sentivano rappresentati dagli esistenti partiti della cosiddetta opposizione nazionale. In contatto stretto con lui erano altri uomini, per esempio Heinrich von Gleichen, Eduard Stadler e Martin Spahn. Ideologicamente vicino erano Wilhelm Stapel, Edgar J. Jung e Hermann Ullmann e numerosissimi scrittori nazionalistici elencati da Arnim Mohler nel suo manuale biobibliografico sulla rivoluzione conservatrice in Germania dal 1918 al 1932. È un volume di questo genere, un pesantissimo volume, ma si vede da questo libro che questo cerchio dei rivoluzionari conservatori è stato molto grande e il loro influsso è stato molto vasto. Generalmente si giudica la risonanza di questo gruppo nella intelligenza come molto vasta e profonda. Indizio del successo del gruppo è il fatto che le loro idee sono pubblicate a mezzo di molte riviste e libri pubblicati in parte in parecchie edizioni. Facilitava il suo successo il fatto che poteva contare con la sua critica contro la Repubblica e contro il sistema democratico parlamentare, col consenso dei seguaci dei partiti di destra, sebbene non erano d'accordo con loro su certi altri punti della loro ideologia. Che i rivoluzionari conservatori davano le loro idee ai nazionalsocialisti è fuori dubbio. E è già da vedere dalle parole d'ordine del Terzo Impero. Nei circoli della gioventù studentesca, in una parte dei professori universitari ed anche altrove, l'influsso dei rivoluzionari conservatori dovrebbe aver preparato l'invasione dei nazionalsocialisti. L'efficienza delle idee rivoluzionari conservatori dimostra il fatto che la rivista Die Tat, l'azione, scritta da un gruppo di autori vicini alla rivoluzione conservatrice dal 1929 in poi, si allargava molto rapidamente e conquistava un cerchio di lettori e cresce ben presto. L'edizione della rivista cresce dalla fine del 1929 fino alla fine del 32, da 800 a più di 30.000 esemplari. In varie città si fondava dei circoli degli amici della TAT. Gli autori della TAT disponevano, poco prima dell'occupazione di potere da parte dei nazionalsocialisti, anche su un giornale quotidiano. Gli effetti dei rivoluzionari conservatori molto probabilmente è ancora più grande che quanto indicano questi indizi diretti, perché le loro parole d'ordine penetravano dappertutto nelle pubblicazioni dei partiti e dei gruppi della cosiddetta opposizione nazionale, molto numerevoli e di grande tiratura, e impressionavano in questo modo un pubblico molto vasto e più grande che l'ambiente solito dell'intelligenza. Prima di finire la mia conferenza con queste brevi considerazioni sull'efficienza dei tre gruppi nella intelligenza della Repubblica di Weimar, da me caratterizzati, vorrei ritornare ancora una volta brevemente alla sociologia del sapere di Karl Mannheim. Un problema che provocava le sue considerazioni era lo scopo di studiare le possibilità di una riflessione politica al di sopra delle diverse opinioni dei partiti e gruppi. Mannheim prendeva sul serio il fatto del condizionamento del pensare dal posto del pensatore nella società e nei diversi ceti sociali, ma credeva, ciò nonostante, di aver trovato nella educazione, Bildung, non sono sicuro se sia una traduzione adeguata, nella educazione, Bildung, per la quale l'intelligenza nei loro diversi ceti sia impressa, l'elemento che dovrebbe dare ai membri dell'intelligenza la possibilità di liberarsi fino ad un certo punto dal condizionamento sociale del loro pensare. A mezzo della loro situazione come intelligenza relativamente libera dall'influsso sociale, relativ freischwebende Intelligenz, si dice in tedesco, sia possibile a questo gruppo di persone di intendere profondamente diversi gruppi di punti di vista e di sintetizzarli in una sintesi superiore, ma sempre nuova e conforme alle condizioni generali della situazione di tempo e di luogo. Posso scegliere dai vari problemi di questa concezione soltanto uno, che mi sembra di grande importanza in riguardo alle considerazioni da me fatte in questa conferenza sul pensiero politico della Repubblica di Weimar. Con l'interpretazione mannheimiana della posizione e della funzione della intelligenza al di sopra dei blocchi ideologicamente fissati dal loro posto sociale, sebbene non senza relazioni con loro, era assegnata una importanza e responsabilità che fa sospettare che, visto la fine catastrofica della Repubblica, che l'intelligenza in questa situazione non abbia soddisfatto le esigenze di questa posizione e di questa funzione. Questa conseguenza negativa può però anche riferirsi al Mannheim, in quanto lui fondava la sua interpretazione di luogo e funzione dell'intelligenza su una sopravvalutazione dell'importanza dell'intelligenza da parte di un membro di questa intelligenza stessa, insieme alla esigenza sopravvalutata di Mannheim, spariva anche l'improvvero di realizzazione mancata. Joseph A. Schumpeter, dopo il 1933, fu arruscito tedesco-ebreo in America, ha descritto posto e funzione dell'intelligenza sulla sua opera su capitalismo, socialismo e democrazia molto diversamente di Mannheim. Dice: un carattere che differenzia gli intellettuali da altra gente che fa lo stesso è la mancanza di responsabilità per cose pratiche. Questa caratteristica chiarisce generalmente un'altra, la mancanza delle conoscenze di prima mano, come dà soltanto l'esperienza reale. L'atteggiamento critico, che non meno deriva dalla situazione dell'intellettuale come spettatore, che dal fatto che le sue più grandi prospettive di successo stanno nel suo reale o nel suo possibile valore come fattore di irritazione, dovrebbe aggiungere una terza caratteristica. Così Schumpeter. Penso che la concezione di Schumpeter si può chiarire precisamente con questa seguente frase: la sua abilità nell'uso della lingua dà possibilità all'intellettuale di curare i suoi bisogni economici, sebbene non è educato per nessuna opera concreta e non ha bisogno accettare responsabilità concreta facendosi pagare come fattore di irritazione, cioè guadagna il suo denaro come critico o si fa corrompere. Se si accetta questo concetto dell'intelligenza come fondamentale, si apre il problema del giudizio sull'intelligenza nella Repubblica di Weimar su un altro livello e può provocare una nuova risposta. Il libro di Petzold sulla rivoluzione conservatore dà numerevoli contributi in questo senso, ma dà in genere un panorama troppo unilaterale dei contatti degli intellettuali con i circoli degli industriali e di finanziatori. Theodor Geiger, infine, dopo il 1933, fu arruscito tedesco-ebreo in Danimarca, ha sottolineato due funzioni centrali dell'intelligenza: la funzione creativa e la funzione critica dissolutrice in riguardo alle ideologie. La constatazione della prima funzione Geiger l'accetta malvolentieri, ma costretto dai fatti innegabili, ma approva pienamente alla funzione critica, o meglio distruttiva, dell'intelligenza in riguardo a tutte le ideologie. Il vero scopo desiderato è il rifiuto degli uomini di unirsi in grandi partiti influenzati dalle ideologie, ma di seguire direttamente i loro interessi materiali, costituendo esclusivamente piccoli e transitivi gruppi. Il concetto di Geiger sulla posizione e sulla funzione dell'intelligenza potrebbe dare un altro fondamento per un giudizio del comportamento dell'intelligenza nella Repubblica di Weimar. Sarebbe preformati da Geiger gli accenti positivi e negativi. Non a caso ho accennato alle diverse concezioni sulla posizione e sulla funzione dell'intelligenza alla fine della mia conferenza, poiché, come non possiamo ritirarci dal giudizio storico sulla posizione del pensare politico in un certo periodo, così non possiamo sopprimere la seguente questione: che risposta possiamo aspettarci legittimamente dall'intelligenza e dai suoi membri? So che con questa questione ho richiamato l'attenzione sul problema dell'autocoscienza dell'intelligenza stessa, ma devo rinunciare in questo contesto di occuparmene. Ringrazio per la sua gentile attenzione. Cioè, a questo punto vale la pena di aprire la discussione. I temi che il professor Leone ci ha sottoposto sono così complessi e anche variegati che non si sa da che parte cominciare. Perché soprattutto la conclusione così effettivamente coinvolgente anche un po' tutti noi, in tutti i momenti, e vale credo per tutti i momenti storici, ci mette di fronte a delle grosse perplessità, no? A intervenire anche. Comunque in ogni caso credo che il materiale a disposizione sia molto, quindi inviterei qualcuno prende la parola. Anche per esprimere delle richieste ulteriori, forse chiedere una, o forse in corso, apre il fuoco, proprio solo per così insomma incominciare, no? Cioè io credo che lei abbia fatto bene a sottolineare la qualità un po' di elite che ha caratterizzato il periodo di Weimar dal punto di vista del dibattito politico, e quindi a insistere continuamente sopra il ruolo svolto durante la Repubblica di Weimar dall'intelligenza, no? Dagli intellettuali, dal ceto degli intellettuali, che è un'elite, evidentemente è sempre una minoranza, raramente autonoma e indipendente, cioè raramente in grado di esprimere direttamente una posizione politica chiusa, che si capisce da sé. Credo che questo sia stato effettivamente vero per la Repubblica tedesca, cioè credo che nella Repubblica di Weimar il ruolo svolto dagli intellettuali sia stato un ruolo molto importante, anche perché c'era il problema di saldare una nuova situazione con una tradizione che, con la sconfitta subita dalla Germania nella Prima Guerra Mondiale, sembrava essere stata del tutto cancellata. Quindi lo sforzo proprio di comprensione, di riflessione, anche storico, politologico, eccetera, doveva essere uno sforzo molto, molto impegnativo. Però, ecco, io vorrei chiederle questo. Accanto a questo ruolo così importante svolto dalla intelligenza nella Repubblica di Weimar, è probabile che ci fossero anche delle ci fosse anche una realtà invece meno di elite, più di massa, che muoveva, insomma, che in qualche modo costituiva il terreno concreto, quotidiano, di lotta, di conflitto politico su cui la Repubblica di Weimar si costruiva e si andava a costruire, e su cui la Repubblica di Weimar è poi fallita anche, ecco. Ho l'impressione che per capire bene proprio fino in fondo questo momento storico così significativo per la Germania, ma non solo per la Germania, sarebbe opportuno appunto cercare di collegare, vedere, di mettere a confronto quantomeno l'aspetto più di élite della intelligenza con gli aspetti più di massa, insomma, ecco, che forse esisteva. Quindi questo chiederei, se fosse possibile brevemente. Sì, certamente questo è un problema di fondo, perché tutti i pensieri politici dipendono dallo stato della società, e anche in questo senso si deve guardare la storia della Repubblica di Weimar. Ma ho provato di fare questa conferenza già concentrandomi su questo aspetto del Überbau. Tutto lo sviluppo della Repubblica di Weimar sta sotto l'influsso di certe realtà, per esempio della realtà che la borghesia si è trovato molto forte dalla svalutazione della moneta nei anni 22-23. Hanno una parte abbastanza grande della borghesia ha perduto tutto questo che aveva, ha lasciato, ha perduto questo sentimento di sicurezza che hanno avuto fino a questo punto. E in seguito a questo fatto si sono trovato molto peggio dal punto di vista del sentimento individuale che nell'impero. E si vede chiaro dal fatto che la tendenza che si potrebbe vedere nella borghesia di rafforzare un partito come questo Partito Democratico tedesco, che sparisce questa tendenza subito, già sotto l'influsso delle richieste degli alleati in confronto alla Germania, e sparisce ancora di più quando questo fatto della svalutazione del denaro fa una impressione nuova. E da questo punto in poi cercano una direzione. Seguono primo al partito nazionalista di tendenza monarchica fino ad un certo punto. Poi viene un periodo di rafforzamento per l'idea democratica della Repubblica, perché lo Stato economico del paese si, si migliora, ma non, ma soltanto per certi anni. Poi viene questa crisi di economia mondiale, e con questa crisi, che ha un influsso molto più grande in Germania che altrove, in seguito a certe operazioni finanziarie, perché c'erano dei crediti molto larghi nel paese, che sono affluiti in un periodo molto stretto. Questo fatto ha di nuovo attivato questa, questo sentimento di incertezza, di insicurezza dei primi anni della Repubblica. E così viene una incertezza della borghesia, cerca una forma di Stato più efficiente che sia questa Repubblica. Questa Repubblica che ha deluso da certi punti di vista. Per esempio, c'era sempre questa difficoltà di trovare un governo. Quasi tutti gli anni, verso la fine dell'anno, c'era una crisi che durava un mese, due mesi, verso questi tempi. E questo ha fatto una impressione cattivissima in Germania, perché non si aveva fino a questo punto questa realtà, questa situazione. Non c'era certamente la colpa della Repubblica soltanto, ma era un sistema cambiato che doveva ricercare i governi e così le forze che potevano sostenere questi governi. Ma questo ha fatto un'impressione alla borghesia di incertezza, di insicurezza, e si cercava una forza più grande, più sicura. E prima si è pensato che si è trovato questa forza nel Reichspräsident. E questo si è scelto questo maresciallo Hindenburg, perché certamente si ha aspettato qualcosa del genere del vecchio imperatore. Ma poi anche lui non poteva fare dei miracoli, e così la ricerca di un redentore, si potrebbe dire, si è continuato. E penso che in questa situazione sia stata molto importante il posto e la situazione e l'attività della intelligenza, perché questa intelligenza poteva trovare qualcosa che poteva ispirare la gente, poteva trovare un'idea che iniziando con la realtà della pubblica poteva indicare dei scopi concreti e reali per questa Repubblica. Ma a me io ho l'impressione che in questo senso è sbagliato la via dell'intelligenza, o ha avuto dei scopi nazionalistici molto superiori delle realtà, e questo è il più importante, sempre in direzione a un conflitto nuovo fra i popoli. E questa, certamente questa via è stata pienamente sbagliata. Ma era anche sbagliata una via dei liberali di sinistra che hanno detto che la sconfitta della Germania nella guerra sia favorevole per il paese. Questo non poteva capire la gente generalmente detta, perché costava troppo di capire questo pensiero. Dietro questo pensiero stava l'intendimento che la guerra sia il fatto più sconfortevole che sia possibile. E così ho l'impressione che lo sviluppo della società tedesca porta con sé una situazione per l'intelligenza molto impegnativa, ma che l'intelligenza ha un po' sbagliato via, perché o ha chiesto delle soluzioni impossibili, per esempio come vedere la sconfitta come quasi come una vittoria, questo era impossibile per la borghesia, o ha fatto dei scopi che hanno avuto una direzione di nuovo in un conflitto mondiale, e questa direzione poi hanno preso i nazionalsocialisti e hanno moltiplicato e hanno usato per la sua propaganda, che è stato tanto efficiente nella situazione di crisi economica alla fine della Repubblica. Grazie. È un campo molto vasto, certamente, e per questo ho provato di metterlo in un chiarimento. Mi è parso molto utile, prego. Volevo fare una piccola domanda, come pomeriggio c'è stata una giornata allora, se non ho sentito l'accenno, ho letto qualche cosa del vostro, non conosco il mille vanno del gruppo, ma volevo sapere l'atteggiamento di questa intelligenza di fronte a quello che erano i sentimenti comuni della gente. Prima di tutto il sentimento di aver perso, che la Germania aveva perso la guerra perché era stata tradita dall'imperatore e dalla cricca imperiale. Questo era un sentimento diffusissimo. Sì, certo. Secondo, la delusione sia della borghesia che della popolazione per la gravezza, chiamiamola così, il peso dei danni di guerra richiesti dalle nazioni alleate alla Germania, che sono state la causa del primo fenomeno della svalutazione, per cui un francobollo costava un miliardo. La preoccupazione delle massaie della mattina era quella di spendere i soldi che ricevevano alla fine della settimana prima della sera, perché la sera valevano la metà del momento in cui le avevano ricevute, e questo naturalmente aveva creato questo senso di delusione veramente in tutta la gente. E poi anche l'atteggiamento della media intelligenza, cioè tutta la classe insegnante, a cominciare dai maestri elementari fino alle scuole medie superiori e università, che ha avuto un notevolissimo peso nell'esprimere questo senso di delusione e di irrilevanza, come si dice, e di ricerca di quello che era appunto un uomo forte, un sistema forte, che ridasse alla Germania quello che era il suo ruolo che aveva avuto negli ultimi 100 anni di storia. Non so, vorrei che queste tre direttrici di pensiero, il Dafür, il Dagegen e per il Lira della critica, come si sono un po' orientate con questi che erano una situazione, diciamo, il pensiero comune che tirava in Germania in quel momento. Sì, sì, sì, lei ha ragione di proporre questi, questi temi, perché questa, questa è discusso sotto il concetto del Dolchstoß, non so tradurlo, dal colpo, colpo con un pugnale da indietro. Questo vuol dire che la sconfitta della Germania sia, sia da ascrivere soltanto alla, a questi uomini di sinistra o agli uomini democratici che avrebbero tradito l'esercito. Ernst Troeltsch ha scritto su questo fatto e ha descritto come questa leggenda, si, non so come, come si dice, questa favola, o come si, si è diffusa in Germania. Prima si ha pensato nella, nella popolazione che sia stata una vera sconfitta. Ma poi con questa leggenda, favola, si ha avuto la possibilità di rifarsi moralmente, o si ha avuto l'impressione di poter rifarsi moralmente con questa, come si dice? Con questa bugia. Perché era veramente una bugia, perché la Germania non poteva resistere a lungo a questa forza militare degli alleati. Certamente c'era una, un movimento politico alla fine della guerra, ma in questo movimento politico non c'era la causa della sconfitta tedesca. E con questo, questa leggenda, la destra nazionalista, la destra monarchica è riuscita di far pesare sui democratici e sui, sui anche sulla gente del centro cattolico l'odio della sconfitta, l'odio del del farrat, del prodigio, del tradimento e così via. E questo è stato un fatto che ha, pesato molto all'opinione pubblica della Repubblica. E poi certamente si poteva continuare. La svalutazione della moneta si ha chiarito, interpretato come causato dai, dalle richieste degli alleati. Certamente queste richieste non erano facili da eseguire, ma non era la causa prima e neanche la causa unica di questa svalutazione. Al contrario, certamente questa, questa svalutazione si poteva proibire con, se si avrebbe respinto la seduzione di fare questa, questa affare nel, nel Ruhrgebiet, questo Ruhrkampf, questo, questo conflitto con la Francia alla Ruhr che ha costato molto, molto, molto e ha abbassato il valore del, del denaro sensibilmente e progressivamente. E poi certamente questa questa ideologia della intelligenza media, per esempio, di tutti i maestri di scuola e di un certo livello dei giudici, è stato influenzato ancora dalla coscienza dell'impero. L'impero ha avuto per la borghesia media uno stato economico molto soddisfacente. Certamente il proletariato ha anche guadagnato dal stato dell'economia gradevole, ma il proletariato è stato escluso dalla direzione politica. Questo non trovava lo stato della borghesia, anche della borghesia media, perché poteva avere l'impressione di avere un influsso abbastanza grande alla politica dell'impero. E così mi sembra che questa borghesia non aveva tanto l'impulso di cambiare qualcosa, ma questo cambiamento è venuto da fuori. Era più la sconfitta della guerra che ha fatto sorgere questa Repubblica di Weimar che la volontà della gente. E certamente la gente avrebbe preferito la continuazione della monarchia sia in questa forma che sia possibile, ma il monarca si è screditato tanto che non poteva più restare all'impero, e neanche la monarchia poteva restare in piedi. Ma Friedrich Meinecke ha descritto questo stato di coscienza molto bene, perché lui è stato convinto che dopo il scredito, dopo che la monarchia si è screditato tanto, non sia possibile un ritorno alla monarchia, ma non perché si amava la Repubblica, ma perché non si poteva andare indietro. E questo è un'altra cosa. Se si intende che non sia il caso di andare indietro, che invece di essere convinto che questa Repubblica sia un progresso veramente detto, e è stato un progresso, perché era la possibilità di influenzare la direzione politica in via democratica, e purtroppo non hanno avuto la coscienza di questo stato cambiato, ma invece hanno visto soltanto questa gloriola dell'impero e hanno dimenticato di concentrarsi alla realtà cambiata anche sotto l'influsso della prima guerra mondiale, che dappertutto ha fatto degli effetti danneggianti. Scusate che non so esprimermi tante volte. No, abbiamo ancora tempo. È più che altro il professor Lene che capisco bene, fa una fatica, cioè poveretto, è meraviglioso mettere italiano, ma io meno i suoi tanti. Io potrei, tra le tante domande che suscita la sua bellissima relazione, vorrei fare alcune domande specifiche. Pertanto cercherò di essere il più chiara possibile. Eventualmente lei può anche dare la risposta in pomeriggio, se lei è stanco. Volevo prima dirle una cosa. Ho riletto proprio in questi giorni il suo bellissimo lavoro su Bernstein per fare una recensione di quel volume che è appena uscito. È veramente uno studio di una organicità incredibile. il volume stesso varrebbe la pena fosse diffuso anche proprio nelle scuole, perché quel panorama sul socialismo è quanto mai organico e completo. Premesso questo, io non conoscevo il Miller van der Broeke, proprio non lo conoscevo, e mi è estremamente interessata la posizione di questo uomo di cultura e del gruppo che a quest'uomo fa capo, fa parte. Soprattutto mi è interessata perché, per quello che io ho sentito questa mattina, non lo conosco specificatamente, vi è una sorprendente analogia con una dottrina consimile formulata in Italia già prima del 1910 da parte di Enrico Corradini, che non so se questo autore avesse o meno conosciuto. Cioè la teoria di arrivare a una solidarietà sociale all'interno proprio in funzione di questa accentuazione dei valori nazionali e trasportare la dialettica fra classi in dialettica fra stati, stati o nazioni proletarie, stati o nazioni capitaliste. Tant'è vero che questo discorso, proprio in modo così chiarissimo, specifico, è stato fatto da Enrico Corradini nel congresso di Firenze del 1910. Sì. Non solo, ma anche altri temi, per esempio il valore quasi catartico della guerra, mi sembrano mutuate da teorie socialismo rivoluzionario. Ecco, non so se poi questa filiazione ci sia anche negli autori tedeschi, però è certo che certi apporti rielaborati in forme così nuove del marxismo si hanno anche nel nazionalismo italiano. Penso per esempio alla posizione di forze avanzate che veniva direttamente dal sindacalismo. Ecco, perciò anche dal punto di vista della lotta sindacale, conflitto fra stati, non fra classi, e questo sboccare in una solidarietà fra ceti, solidarietà però non fra simili ma fra dissimili, proprio per cementare l'unità della nazione. E quella mia domanda era questa: se appunto in questo gruppo vi è una qualche conoscenza o un qualche legame con quel nazionalismo italiano che già aveva elaborato queste dottrine nel 10 e che poi completerà nella loro elaborazione fra il 10 e il 14 nei congressi successivi Roma e Milano. Questa sarebbe la prima domanda. Un'altra osservazione, domanda di carattere generale, ma può rispondere anche in pomeriggio, è la seguente. Nel 24, se non sbaglio, o 25, gli uomini che appartengono a questo gruppo salutano il fascismo come piena realizzazione di una rivoluzione nazionale, di una rivoluzione conservatrice. Perciò in questo gruppo c'è la consapevolezza che certe concezioni nazionaliste logicamente sfoceranno nel fascismo in questo momento italiano, poi fascismo europeo. Dunque, legame almeno dal punto di vista ideologico, dal punto di vista dell'intelligenza, degli uomini di intelligenza, fra nazionalismo e fascismo europeo. Ecco, questo legame, che parve evidente anche a uomini italiani dell'area antifascista, e per esempio emerge chiaramente nel nazionalfascismo del Salvatorelli del 23 o negli articoli pubblicati dal Gobetti tra il 23 e il 25, per citare due esempi, ma che è anche accettato dalla storiografia straniera sul fascismo italiano, il Bossard o Max Smith, per citare qui due nomi famosi, sembra invece essere contestato da una parte dell'attuale storiografia italiana, per esempio Imperfetti, che mi pare sia stato anche qui, il quale invece dice no, il nazionalismo non ha niente a che vedere col fascismo. Tant'è vero che quando il fascismo ha il potere, il conflitto con i nazionalisti è molto teso. Perciò mi sembra che ci sia proprio una discrepanza tra queste due posizioni, Personalmente ritengo che il rapporto tra nazionalismo e fascismo sia diretto, come vuole Salvatorelli, che non rispetto a quanto si interpreta dall'attuale storiografia. Premesso questo, non so se sia stata fatta una comparazione tra questo gruppo di uomini di cultura della Repubblica di Weimar e gli uomini di cultura del nazionalismo rispettivamente del fascismo, non lo so. Però lei crede che un esame comparato di queste due posizioni, qualora potesse essere fatto, e premettendo che eventualmente la posizione ideologica italiana precede quella tedesca, lei crede che potrebbe gettare reciprocamente luce sui due fenomeni, rispettivamente sul fascismo europeo? Non so se sia stato fatto uno studio di questo genere. Concludo, non vorrei averle dato un po' di questioni. Non so se ho cercato di parlare piano. Sì, sì, sì, ho capito molto bene lo trovo molto interessante, ma è un campo vasto. Ma vorrei fare delle domande. Prima, forse un po' breve, ma per punti concreti in prima linea. Concernente prima l'influsso di Corradini a Möller van den Broek. Sì, io lo trovo inverosimile, già dal punto di vista della conoscenza della lingua, ma questo è soltanto una spiegazione generale, si potrebbe dire, perché non so esattamente se Möller van den Broek, che è stato un uomo molto colto, forse ha conosciuto la lingua italiana, ma l'influsso dall'Italia è sempre bloccato dal fatto che in Germania non si capisce tanto dell'italiano. Per esempio, posso fare un esempio, un noto socialista, non so chi è stato, non mi ricordo adesso bene chi è stato, ha parlato a Berlino, in senso antifascista. Hanno avuto un traduttore della sua conferenza, ma poi lui ha visto che neanche questo traduttore ha capito bene la sua conferenza e doveva fare una lettera al giornale principale della democrazia, della socialdemocrazia, per correggere questa interpretazione, questa traduzione sbagliata, soltanto per far vedere la conoscenza della lingua è stata molto stretta, così che quasi tutte le conoscenze anche sul fascismo si trae dai giornali e dai giornalisti che si trovano in Italia, che scrivono sul fascismo, e così ho l'impressione che Möller van den Broek non ha avuto tanta conoscenza di pensiero di Corradini, ma vorrei fare attenzione a questo punto che mi interessa personalmente. È un fatto. Sì, sì, sì, anch'io ci ho pensato senza concentrarmi però su Corradini, ma che è veramente lui a cui si potrebbe adressare questa idea, sì, in diretta, sì. Sì. Fascismo, sì. I conservatori hanno salutato il fascismo, sembra di sì, ma non so se sono sicuro e se questa impressione sia esatta in tutti i riguardi. sto preparando una grande ricerca sulla risonanza al fascismo italiano in Germania durante la Repubblica di Weimar. Ho elaborato fino adesso soltanto dal punto di vista della sinistra, ma ho collegato insieme già anche materiale per la destra e per la parte conservatore, e ho trovato anche dei respinti da parte conservatore contro il fascismo italiano, e anche da parte dei nazionalisti conservatori c'è qualche impedimento, e questo impedimento è la mancanza dell'antisemitismo nel fascismo italiano. Questo fa un'impressione molto cattiva ai nazionalisti tedeschi, che pensano che l'antisemitismo sia la prima cosa che dovrebbe aspettare da un movimento nazionalista. Per esempio, i nazionalsocialisti sono delusi da questo fatto, e Hitler fa andare a Mussolini un scritto di 20 pagine dove è descritta l'influsso degli ebrei nella Germania, e dove si spiega la storia della Germania soltanto dall'influsso forse è a una certa interesse dove si è trovato questo fascicolo, si è trovato nelle carte di Duce, ma dove si trova le carte dei pazzi che fanno dei progetti sbagliati, dei progetti fantastici, dove là si trova anche questa relazione di come? Il 20 giugno l'avrebbe potuto pubblicare una cosa da fare, come dici? Il 20 giugno l'avrebbe potuto pubblicare allora quello che ha pubblicato, se questa non era l'opinione. Sì, poi rapporto nazionalisti col fascismo. Questo è un punto molto importante, che anche sotto l'influsso dell'interesse di questa gente conservatore di liberarsi da questo come si dice, da questo da questa colpa di collaborazione, di preparazione del fascismo. È difficile, perché certamente hanno influenzato i nazionalsocialisti, questo non è dubbio, ma poi, perlomeno in Germania, quando è venuto al potere Hitler, hanno avuto delle riserve e hanno detto che avrebbero queste riserve, e per esempio questo Jung che ha elencato qui nella mia conferenza è stato ucciso nel 1934 come oppositore conservatore contro il nazionalsocialismo, e ci sono parecchie personalità che quando hanno intravisto questa via di atrocità del regime nazionalsocialista, hanno rifiutato questa via, e qualche volta sono finiti nelle squadre dell'antifascismo. Sì, c'è questo fatto. E così un quadro di queste relazioni dovrebbe essere molto equilibrato. Si deve certamente vedere che sono delle relazioni molto vicine, di incorporazione, portatori dell'idea nazionalsocialisti, ma ci sono anche dei punti di riserva, dei punti di rifiuto, e si deve decidere che vale più, e si deve deciderlo anche sotto il punto di vista del periodo di cui si tratta. Durante la Repubblica di Weimar, certamente questa gente era quasi una avanguardia del nazionalsocialismo, non mi pare che ci sia dubbio. Non so se... Posso sottolineare, siccome io domando scusa, quindi adesso al pomeriggio non potrò essere qui, sono stato via tutta una settimana intera e mi volevo aggiungere qualche cosa e contemporaneamente porre due piccolissimi problemi. La risposta non penso che dovrà essere molto lunga. Beh, innanzitutto io dico la piena soddisfazione di aver visto un tentativo di sistematica dell'intelligenza più che un riferirsi, come si fa costantemente, alle correnti politiche contrarie, che ha permesso di vedere quello che è il sottofondo. Sottofondo culturale che si manifesta poi nell'orientamento dei singoli partiti. Volevo richiamare questa importantissima osservazione che lei ha ripreso con Geiger della funzione critica e della funzione produttrice dell'intelligenza. E vi domando, ecco qui è la prima cosa, se è stato fatto e se vale la pena eventualmente di fare. Un problema politico di tanta influenza, ma di tanto influsso, quasi non da decidere soltanto con la realtà politica. Si potrebbe anche alludere alla Renania, che ha avuto la tendenza di farsi indipendente, forse anche in connessione con la Francia. Non so se sia noto il fatto che il cancelliere Adenauer ha fatto una come si dice, una ha avuto un posto molto importante in questo movimento di separazione nella Renania dopo la prima guerra mondiale. Sì, certamente queste forze di dissoluzione della Germania c'erano e hanno avuto l'impressione alla politica della Repubblica, nel senso che si è avuto l'idea di non cambiare tanto per non dare delle ragioni di separarsi. Per esempio, gli socialdemocratici non volevano cambiare il sistema troppo per fermare la den Zusammenhalt, la connessione del paese. Hanno avuto paura che la separazione potrebbe progredire dalla Renania, dalla Baviera, anche agli altri regioni, e così sarebbe perduta questo vantaggio questo scopo nazionale dell'unità ricevuta o che si ha ricevuta con tanta fatica nel secolo del mondo. Grazie.